Hey, Big Shot, ha, Crime Crew, Gino Miguezeta, ha, hey, Big Shot, Domus Novas, Bar de Blanca Rex. Chiedi, tu chiedi, se vuoi chiedi, vieni qua e bevi, non stare muto, tu chiedi, chiedi, tu chiedi, cosa vedi, Pixar Rap più la creme, cosa credi, ascolta, poi ripeti, sempre in piedi, avanti comunque, sempre in piedi, avanti comunque, sempre in piedi, non ci scalfisci, ricorda sempre, sta in piedi, Pixar, se mi sveglio storto non vuol dire che ho bevuto. E se mi sveglio storto forse c'ho il cazzo girato. Sai com'è? Pixel rap in connessione con la creme. Se mi stressi ti pianto, tipo il muro a Gerusalemme. C'ho amici che vi fan push push, tipo Bud Spencer. Tu c'hai amiche che vogliono banane alla Desire Spencer. Ma com'è? Ogni giorno, sempre la stessa storia. Devi muovere il culo per cambiare la tua storia. Questo è Pixel rap, man, sotterraneo nel posto. Arrivo dal sud, stretta di mano, bella, ma non ti conosco. Nella tua testa fin dal mio debutto, dappertutto. Porto occhi rossi sotto occhiali rossi e tutte sotto. Chiedi, tu chiedi, se vuoi chiedi, vieni qua e bevi, non stare muto, tu chiedi. Chiedi, tu chiedi, cosa vedi, Pixel rap più la creme, cosa credi, ascolta, poi ripeti, sempre in piedi, avanti comunque, sempre in piedi, avanti comunque, sempre in piedi, non ci scalfisci, ricorda sempre, sta in piedi, Pixel. E non è Gucci Mane, questo è Mickey Man, sto col Pixel rap, facciamo fuori sti merda. E se rappo, non è che faccio rap e non mi aggrappo, a culi del cazzo per la notorietà. Tu sei K.O. qui, noi non siamo innocui, ma tu giochi fra fuochi e poi ti scotti. E se cado mi rialzo, ribalto, tu rimani muto in due secondi, ti scasso. È flow che scassa, senti, che ti colpisce in faccia, spacca tutti i denti. È inutile che ci tenti, che dopo due secondi cadi come i perdenti. Chiedi, tu chiedi, se vuoi chiedi, vieni qua e bevi, non stare muto, tu chiedi. Chiedi, tu chiedi, cosa vedi, Pixel rap più la creme, cosa credi, ascolta, poi ripeti, sempre in piedi, avanti comunque, sempre in piedi, avanti comunque, sempre in piedi, non ci scalfisci, ricorda sempre, sta in piedi, Pixel. Ti credi boss, ma tu non sei nessuno, magari in qualche futuro potresti andare a fanculo. Guardi le mie foto, ti incanti sopra il mio look, e sei talmente scemo che pensi che facci buco. In giro con i capelli sempre più alti, in giro con i ragazzi sempre più pazzi. Vorresti tu donna attaccarti ai nostri cazzi per addomesticarli e noi addomesticar. Bitch, sbagli uomo, non è così che si fa. In giro con Gino, Mickey e Pix da fuori città. Nei sotterranei zeri intrusi state fuori, qui non si entra se non sono incisi i vostri nomi. Chiedi, tu chiedi, se vuoi chiedi, vieni qua e bevi, non stare muto, tu chiedi. Chiedi, tu chiedi, cosa vedi, Pixel rap più la creme, cosa credi, ascolta, poi ripeti, sempre in piedi, avanti comunque, sempre in piedi, avanti comunque, sempre in piedi, non ci scalfisci, ricorda sempre, sta in piedi, Pixel. Parto rano, parlo tanto, non mi va di cantare, sempre la stessa cosa, cosa ve lo dico a fare, se parlo dico cazzate e poi tossisco, credo in Cristo, ho comprato ogni tuo disco, e vieni a fare pure il divo con i bling bling, arrivi tutto figo ma ti manca blin blin, ridi di me, ma cosa c'è da ridere, forse la tua tipa quella che mi viene a scrivere, del Gilo vacci piano, tanto lo sappiamo, è il classico fighetto che poi a casa va di mano, da CA a Domus Nova, resto in connessione, sono ingordo, occhio alla tua tipa coglione. Chiedi, tu chiedi, se vuoi chiedi, vieni qua e bevi, non stare muto, tu chiedi, chiedi, tu chiedi, cosa